U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. Nome: Fabio Massimo. Cognome: Castaldo. Età: 30. Nato a Roma. Eletto in Italia centrale, Lazio, Toscana, Umbria e Marche. Con quanti voti? 38.088. Partito politico: Movimento 5 Stelle. Gruppo politico: IFDD. Segni particolari: codino, pizzetto e battuta pronta. Quante lingue parla? Italiano, inglese, francese, spagnolo e capisco un pizzico il portoghese. Competenze europee in 10 parole: affari esteri, difesa, cooperazione, commercio internazionale, affari costituzionali, interni e giustizia. Benvenuto nella U-Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. Trattato di libero scambio UE-USA TTIP, favorevole o contrario? Contrarissimo. Perché? Perché temiamo che possa scavalcare completamente la possibilità di avere uno sviluppo armonioso delle relazioni commerciali tra i vari paesi, ma al contrario possa abbattere diritti fondamentali come il principio di precauzione duramente acquisiti appunto nel tempo della legislazione europea, e perché non vogliamo scatenare una nuova guerra tra poveri, tra i lavoratori dei due continenti. A che punto siamo della trattativa? La trattativa sta andando avanti, ma in questo momento diciamo che ci sono forti resistenze sia da un lato sia dall'altro. Probabilmente potrebbe uscire fuori un testo che non soddisfi né i fautori del libero commercio a qualunque costo né i suoi detrattori. Pertanto probabilmente forse sarebbe meglio accantonare direttamente queste trattative. Status di economia di mercato per la Cina. Quali garanzie per la concorrenza leale? Beh, non ci possono essere garanzie di concorrenza leale con chi non fa concorrenza leale. In questo momento la Cina continua ad avere un chiarissimo dumping economico e sociale, ma anche ambientale nei confronti dell'Europa. Non è possibile in questo momento competere con chi non rispetta le regole. Questo vorrebbe dire mettere a repentaglio 3 milioni di posti di lavoro in Europa e almeno 400.000 in Italia. Noi non lo accettiamo. A chi conviene in Unione Europea che la Cina raggiunga lo status di economia di mercato? Sicuramente conviene ai paesi dell'Europa del Nord, in particolare ai paesi scandinavi, alla Gran Bretagna, che fondano la maggior parte della loro economia sui servizi. Non conviene di sicuro all'Europa manifatturiera, Italia, Francia, Spagna e altri, tra cui appunto in particolare l'Italia. Vorrebbe dire mettere in ginocchio le piccole e medie imprese che sono da sempre la spina dorsale della nostra economia. Cosa salva dell'Europa? Cosa butta? Dell'Europa salvo senz'altro il sogno originario, l'aver posto un termine ai secolari conflitti del continente e l'idea di poter combattere insieme e affrontare insieme le sfide della globalizzazione. Butto invece la deriva completamente orientata alla moneta e che ha accantonato invece il progetto politico e soprattutto ha accantonato la voglia di rafforzare la democraticità dell'Unione e la sua vicinanza ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle dopo la morte di Casaleggio. Il Movimento 5 Stelle deve semplicemente proseguire il progetto e proseguire il sogno. Il suo motto? Cambiare il paese per non cambiare paese. U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.